L'Evangelo per radio. Nei momenti difficili della vita. Cari ascoltatori, il libro dei Salmi, così come lo troviamo nella Bibbia, è un libro di preghiere. Non c'è credente che non abbia trovato in questo libro una parola di conforto, di insegnamento e d'aiuto. Leggendo tempo fa il Salmo 77 sono rimasto colpito dal modo in cui il salmista, trovandosi in una situazione alquanto brutta, ha risolto il suo problema. E penso, caro ascoltatore, che questo sia valido anche per te. Il salmista inizia la sua preghiera dicendo: «La mia voce si eleva a Dio, e io grido. La mia voce si eleva a Dio, ed egli mi porge l'orecchio. Nel giorno della mia distretta io ho cercato il Signore. La mia mano è stata tesa durante la notte senza mai stancarsi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata». Il salmista sta soffrendo veramente, a un punto tale che tutta la notte egli ha pregato e la sua anima rifiuta di essere consolata. Quando una persona rifiuta di essere consolata, si trova in una posizione veramente grave. Forse anche tu che stai ascoltando hai un grave peso da portare, forse anche tu trovi che intorno a te vi sono dei consolatori molesti, della gente che vuole consolarti ma che in effetti non fa proprio nulla. Ebbene, il salmista si è trovato in questa situazione ed egli continua la sua preghiera dicendo: «Mi ricordo dei miei canti durante la notte. Medito nel mio cuore e lo spirito mio va investigando. Il Signore ripudia egli in perpetuo e non mostrerà egli più il suo favore e la sua benignità è venuta meno per sempre? A sua parola ha ella cessato per ogni età? Il Dio ha egli dimenticato d'aver pietà? Nella sua ira ha egli chiuse le sue compassioni?» Quante domande si è posto il salmista. È vero, quando si hanno dei gravi problemi, quante domande sorgono nella nostra mente. E la domanda è dimostrazione che la persona si trova veramente in grave distretta. Anche il salmista ha cominciato a chiedersi se l'amore di Dio veniva meno, se la sua parola, cioè le sue promesse, erano venute meno. Egli si poneva veramente delle domande grosse. Possibile che Dio non mi ami più? Possibile che Dio non operi più nella mia vita? Ma come mai io prego ed egli non risponde? Possibile. Ed ecco che continua la sua preghiera dicendo: «E ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata». Sì, egli era afflitto perché pensava che Dio non era più lui. Pensava che Dio fosse cambiato. «Ecco, la mia afflizione sta in questo», diceva, «che Dio non è più quello di una volta». E allora che il salmista ha dovuto dire: «Io rievocherò la memoria delle opere dell'Eterno. Sì, ricorderò le tue meraviglie antiche, mediterò su tutte le opere tue e ripenserò alle tue gesta». Io credo che qui vi sia la chiave per ogni figlio di Dio per risolvere i problemi per il momento irrisolvibili. Il salmista, abbiamo detto, si era posto molte domande, egli addirittura temeva che Dio non fosse più un Dio d'amore, non fosse più un Dio che rispondesse. Ma trovò il metodo per non cadere in un giudizio sbagliato, un giudizio affrettato, per non cadere nell'apostasia. Egli ha detto: «Io rievocherò la memoria delle opere dell'Eterno, ricorderò le tue meraviglie». Ecco il segreto. Ricordare ciò che Dio ha fatto in passato. Ricordare ciò che Dio ha operato nella vita vissuta. Caro ascoltatore, questo è il segreto per non cadere in un giudizio sbagliato su Dio. Sì, quando vedi che attualmente sembra che Egli non risponda, quando vedi che attualmente il Signore sembra che non ti ami, con la tua memoria cerca di ricordare ciò che ha fatto nel passato. Ricordati di quante volte Egli ti ha benedetto. Egli lo ha fatto in mille modi, in mille maniere. Ti ha benedetto avendoti dato una vita, ti ha benedetto avendoti dato un'anima mediante la quale tu puoi parlare con Lui, e ti ha benedetto, se tu rifletti attentamente, in tantissimi modi che io non sono in grado di sapere, ma che tu conosci molto bene, che la tua anima conosce molto bene. Ecco cosa devi fare se ti trovi in un periodo particolare di distretta e di tribolazione. Ricorda ciò che il Signore ha fatto, e ricorda che Egli ti ha amato dando il suo figliolo a morire sulla croce per te. In questo modo Egli ha dimostrato per l'eternità il suo amore. Ora, se attualmente non vedi l'amore di Dio, non importa, guarda il Golgota, guarda là a quel monte, dove è stata innalzata una croce su cui un uomo è stato inchiodato. Guarda la croce, quella è stata la prova più grande e inconfutabile che Dio ti ha amato e il suo amore è per l'eternità. Non può amarti il Signore per un po'. No, il suo amore è eterno come. Lui è eterno. Abbi questa fede, e presto vedrai il sole disperdere le nuvole del dubbio.